La Cicogna Nera. E quando sono 8 minuti dopo le 9 riniziamo, prendiamo il testimone da CPT Balkan Music iniziamo anche questo giovedì, come ogni giovedì, le sonorità popolari contemporanee, le musiche del mondo nel nuovo millennio, anche se questo millennio non deve essere proprio così selettivo, cioè nel senso che ci piace anche passare la musica del Novecento, anche la musica tradizionale, popolare tradizionale, e questa sarà una buona serata per fare questa occasione. La playlist di questa sera vedrà diverse canzoni di tradizione, di estrazione prettamente popolare, dunque senza un autore ben preciso, e questo lo possiamo fare anche perché questa sera avremo quasi 2 ore a disposizione, in quanto le sonorità in quanto il programma che viene dopo, ossia l'ispirazione pagana, non ci sarà, e dunque noi ci prolunghiamo fino alle 11 di questa sera. Dunque 06 49 17 50 sono i nostri contatti, il numero di telefono a cui potete chiamare, c'è una mail che è lacicognanera@ondarossa.info, e di solito mettiamo anche le puntate in podcast. La scorsa settimana, quella della scorsa settimana, ancora non ci siamo riusciti perché ci sono dei problemi tecnici, comunque appena aggiustati ricominceremo, insomma, e continueremo a mettere queste puntate. Oggi andiamo all'ascolto, alla scoperta relativa naturalmente di 2 regioni italiane, così avremo l'occasione, anche il tempo di vedere sia i progetti contemporanei più nuovi che riprendono dalla tradizione popolare, sia appunto quei progetti di cui vi parlavo prima che arrivano prettamente dalla tradizione, e lo faremo approfondendo 2 regioni italiane. 2 regioni italiane che sono esattamente all'opposto geograficamente, che iniziano entrambe per la P, ossia andremo ad approfondire nella prima parte del programma la Puglia e nella seconda invece il Piemonte. 2 regioni molto molto grandi, dunque, che hanno un'identità culturale molto forte, ma che entrambe comunque hanno la peculiarità di avere una subcultura all'interno, anch'essa molto presente. La prima, cioè, riguarda la Puglia, che si esaurisce tutta all'interno della sua regione, mentre per quanto riguarda il Piemonte, questa subcultura, che è quella occitana, è l'estrema propagine di questa cultura che prendeva tutta la Francia meridionale e appunto delle valli del Piemonte, dell'Ovest. Allora, è proprio giunto il momento di iniziare, lo facciamo con un piccolo fiume, un rio, questo è il titolo di questa canzone, che è la foce di un fiume quando si getta in mare, che ne decreta la fine, ma allo stesso tempo ne decreta anche l'inizio di un nuovo percorso. Apertura affidata agli Officina Zoe. Continuiamo subito con il prossimo progetto, uno dei più bei del Salento contemporaneo. L'acqua, tanta quanto la grazia delle donne, condannate a sollevarla con le orecchie, Cina, Darfur, sete, Palestina, Tibet, sete, Birmania, Afghanistan, Sete. Sete di umanità. La strada consigliata. Il treno più lungo del mondo finisce alla negazione della libertà. Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Più poveri del mondo. Dimenticarono tutti i potenti che erano ancora i tempi dei pirati che al largo del corno nell'oceano catturavano. Sina, progetto a cura di Cesare Dell'Anna, seconda traccia che abbiamo passato questa sera, molto contrastante rispetto, insomma, all'apertura di Ryu degli Officina Zoe, uno dei primi gruppi che negli anni 90 ha dato vita al nuovo contesto della Taranta, o comunque uno dei gruppi più famosi in Italia. Due tracce molto differenti. Anche Cesare Dell'Anna, che è un trombettista salentino, ha una cultura musicale pazzesca, porta avanti ben tre o quattro progetti, tra cui gli Opa Cupa, sicuramente di ispirazione balcanica, e Taranta Virus, dunque per dare adito alla cultura musicale del suo Salento. E quello che ci è piaciuto di più proprio alla Cicogna Nera è questo Afrik del 2009, pubblicato lo scorso anno per la 11 Ottavi Record. Questa Zina, questo nome che è dato all'album, vuole significare proprio la tradizione, vuole significare, scusate, la contaminazione tra musicisti africani e pugliesi, quelli che sono coinvolti in questo progetto. E in effetti l'album è intriso di sonorità che vanno dal Maghreb al Senegal e alle melodie più familiari a Cesare Dell'Anna, dunque al jazz, al suo folk, ma c'è anche del reggae, del dub e c'è anche dell'elettronica, come avete sentito in questa Acqua. Dunque un progetto dedicato a tutti i popoli senza terra, a chiunque è vittima di guerra. E noi andiamo avanti e andiamo a esplorare una delle strade di Cesare Dell'Anna, quella che guarda est, quella dei Balcani. In effetti il prossimo gruppo che andiamo ad ascoltare prende piede super giù all'inizio del 2000 e la traccia che vi propongo è del loro ultimo album un paio di anni fa, si chiama Road to Damascus. Loro si chiamano in Municipale Balcanica e nel loro nome già c'è tutta l'intenzione, il manifesto della loro musica, e la canzone che ci ascoltiamo, una tra le più interessanti, si chiama Orso Ballerino. Delle poche tracce cantate, se non mi sbaglio, di questo Road to Damascus, di questi 11 elementi che arrivano da Terlizzi vicino a Bari, la Municipale Balcanica, dunque, che guarda est, ma molte delle musiche che fanno i pugliesi guardano est per forza di cose e traggono ispirazione, insomma, da tutto il mondo dei Balcani e anche, perché no, della Grecia, ad esempio, canzoni che vengono a sostenere tutta la cultura del greco che si trova appunto in Salento. Allora, ancora due progetti andiamo ad ascoltare che partono entrambi dall'organetto di Claudio prima e super giù, penso anche loro verso il 2000. I primi che ascoltiamo si chiamano gli Adria e partono nel 2002, e la seconda traccia invece si chiama Banda Adriatica. Tutte e due comunque portano nel nome naturalmente l'intenzione, che è quella delle musiche del mare Adriatico, delle musiche di questa zona dell'Italia. E per quanto riguarda gli Adria, Adria, la prima canzone che ci ascoltiamo è stato pubblicato in questo 2010, Penelope, da cui ci ascoltiamo ancora una traccia cantata, si chiama Siamo arrivati questa notte. Senso basterà, la nostra storia non è una novità, ed è la storia che dimenticavi. Siamo fuori di quartiere, inguagliati per passione, ma noi conosciamo bene che cosa rende uguali. Siamo arrivati stanotte, siamo arrivati stanotte, siamo arrivati stanotte, siamo qua, il nostro numero stupirà. Siamo arrivati stanotte, dunque, una delle tracce più interessanti di questo Penelope, ricordiamo 2010, uscito insieme ad un altro album della Banda Adriatica questa volta. Questo progetto invece dello scorso anno si chiama Maremoto e il nome sta proprio ad indicare l'incontro, il progetto di un incontro oltre il confine italiano, cioè quello della musica adriatica del mar Adriatico che ha disperso, insomma, sedimentato frammenti culturali, figli della stessa origine li si è diventati al di qua e al di là delle coste, dunque dal Salento ha fatto tappa anche a Dubrovnik, a Durazzo, a Tirana, per citare solo alcuni nomi. E proprio in questa direzione vanno anche gli ospiti di questo maremoto, che vede un bellissimo coro bulgaro da nome di Eva Quartet dalla Bulgaria. Ci sono anche Ivo Letonic e Matteo Martinovic dalla Croazia, o Boyken Lako dall'Albania, proprio a sintetizzare il passo, cioè il passare, insomma, questo mare Adriatico, il volerlo oltrepassare musicalmente. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 2, se non mi sbaglio, una molto interessante, perché si distacca un po' dalla sonorità tipica della banda adriatica, che comunque emergerà a metà canzone. Questa è Bullet. I'm the of noise. Climb the highest mountain of noise. And breathe the air of war, sacrifice me. That's why I've become a rebel. When nobody's watching you. Sicuramente questo Bullet è la traccia più destabilizzante per le sonorità tipiche della banda adriatica, con tanto di quella musica nordamericana che ci hanno insegnato e imparato ad ascoltare. Andiamo avanti, scendiamo giù nel Salento, andiamoci ad ascoltare un po' di pizzica, un po' di Taranta, il vero humus trainante musicale di questa regione, che negli ultimi anni è tornata molto molto di moda in Italia, e lo facciamo con due gruppi che hanno sposato la tradizione, quella della musica popolare, alle nuove tecnologie digitali. Super Giù prendono il via negli stessi anni, cioè quello della fine degli anni 90. I primi sono molto famosi, si chiamano Nidi d'Arak e nascono a Roma nel 98, se non mi sbaglio. Vado un attimo a controllare, sì, nel 98 a Roma, grazie al musicista salentino Alessandro Coppola, e arrivano ora nel 2010, penso che sia uscito quest'estate, alla pubblicazione dell'ultimo album, che si chiama Taranta Container. Praticamente è una raccolta e una rivisitazione dei loro brani più famosi, dei loro album antecedenti. Penso siano 6 brani che hanno realizzato questa band. Dunque, vi propongo una canzone che non è originale loro, ma che sicuramente tutti avete conosciuto e ballato in più di un'occasione. È una canzone stupenda, si chiama Cerchio si apre, cerchio si stringe. Cerchio si apre, cerchio si apre. Cerchio si stringe, cerchio si stringe. questo. In basso, addosso, in basso. Le mosche non ci cresce sopra il sasso. E le mosche non ci cresce sopra il sasso. Scaccia, scaccia, sata, nasce, scaccia, lo tiano, cade, passa. Le rocche si consumano, ecco, iniziano i tremori. Della taranta, della taranta, della tarantulata. Tarantella, tarantata, tarantella, tarantata. Tarantismo, tarantismo, tarantismo, tarantismo, tarantatissimo, tarantatissimo, tarantatissimo, tarantatissimo, sicuramente l'avrete riconosciuta, una delle canzoni più belle e famose dell'immenso Capossela, qui è trasfigurata, ritrasformata dai Nidi d'Arac per questo suo Taranta Container, ripetiamo, uscito quasi sicuramente quest'estate. Allora, altro progetto che va nella direzione dei Nidi d'Arac è quello dei Mascari Mirì, sempre salentini, sono o i fratelli o i cugini Giagnotti insieme a Carlo Calabrese De Pascali, che nel 97 decidono di lasciare il progetto Terra de Mensu e fondare questi appunto Mascari Mirì, con il concetto di tradinnovazione, parola che loro stessi hanno fondato a spiegare la musica che volevano fare, ossia quella dei tamburelli, della tradizione della pizzica mescolata al dub, al rock, al reggae e soprattutto l'elettronica. Una peculiarità forse dei Mascari Mirì, che una delle loro canzoni, Bendiri, è diventata ormai un classico, viene suonata praticamente nelle feste paesane a fianco dei tradizionali di pizzica, e questa sera invece ve li vogliamo proporre con una ballata, la ballata di Santa Marina. La viene sempre a mano, la viene di te. questa è la ballata di Santa Marina dei Mascari Miri. Noi proseguiamo con la Cicogna Nera quando sono le 9:15, manca un quarto d'ora allo scoccare delle 10, ma vi ripetiamo, questa sera abbiamo un'oretta in più per ascoltare anche un po' di altre sonorità, in particolare che arrivano dal Piemonte. E invece la base che ascoltiamo questa sera per quanto riguarda la Puglia è una cantante, musicista, compositrice che arriva, che è nata in Austria e si è poi spostata in Francia, ma che ha una grande passione per l'Italia del 600, per il barocco, un'epoca in cui si improvvisava, e lei si è dedicata allo studio della tarantella, ma come studio, insomma, arcaico, su come veniva suonata qua in quest'epoca, in epoca barocca, che musica c'era, insomma, un grande album a proposito di Cristina Pluhar e l'arpeggiata in questo fantastico album. Questa è una tarantella, se non mi sbaglio, napoletana, ne ascoltiamo un frammento. E dunque, Cristina Pluhar, un CD veramente molto molto bello. Dunque, ripetiamo, Cristina Pluhar e l'arpeggiata. E proseguiamo andando invece ad ascoltare, rientriamo nel Salento, andiamo ad ascoltare un gruppo che da un po' di tempi, da un po' di anni, insomma, si dedica allo studio dell'originale musica della Grecia salentina, del greco. Quella che ci ascoltiamo questa sera si chiama, dunque andiamo a vedere, Mavro che Scotinò, se la pronuncia è quella. Antico questo pezzo dei Ghettonia, che in questo caso fa risuonare il lamento antico di una giovane, di una povera, anzi donna, scusate, nella lingua del greco, una lingua antica, come abbiamo detto, dalla ricca musicalità, una lingua che richiama sia le melodie di ispirazione ionica sia quelle balcaniche. Allora, ancora un gruppo che va nella direzione dei Ghettonia, cioè quella della ricerca e riproposizione della musica popolare. Forse sono un po' più sconosciuti rispetto ai Nidi d'Arakka, ai Mascari Miri, ma pensate che vanno avanti dal 1978 e in base sul loro MySpace, anzi possiamo leggere a proposito del loro nome, che è quello degli Huaragnaun, se la pronuncia è questa. Huaragnaun è leggenda e mito, è un suono, una onomatopea, ma è anche una località dell'Altamurgia barese, una rocca tagliente ricca di misteri e passioni. Dunque ci dicono che gli Huaragnaun è un progetto musicale che vogliono raccontare le storie ancestrali del popolo delle pietre che abitavano queste zone, le miserie, le nobiltà, dei cafoni all'inferno. Ecco, uomini, bestie ed eroi ancora scrivono della civiltà contadina pugliese. Questo sul loro MySpace. La canzone che ci andiamo ad ascoltare qui alla Cicogna Nera questa sera è Diavole, Diavole. Diavolo, diavolo, stanotte, pugliere m'è caduta dallo letto, pugliere m'è caduta dallo letto, e si m'è giunto cinque a pugliare pera, e si m'è giunto cinque a pugliare pera, non c'è che lo metti ma fa la spia, non sordo lo metti ma non slara, e vi dico non è picchiato, c'è uno sordo lo stupiato, e vi dico non è picchiato, c'è uno sordo lo stupiato, e vi dico non è picchiato, c'è uno sordo lo stupiato, e vi dico non è picchiato, c'è uno sordo lo stupiato. Diavole degli Huaragnaun, dunque, che ci accompagna qui alla Cicogna Nera quando sono le 9:52 minuti. Andiamo avanti, questa volta andiamo a sentire un coro femminile che arriva sempre dall'altopiano della Murgia. Hanno preso il via una decina d'anni fa, non mi ricordo, comunque sono al loro terzo album pubblicato un paio di anni fa per la Filmay, si chiama Sospiro, e loro anche prendono il nome da un luogo della Murgia, la più profonda cavità carsica della Murgia. Si chiamano le Farawalla, appunto questa voragine che si trova in questa zona dell'Italia e che si apre insomma fra distese di grano, di pascoli, di masserie, e che ha ispirato una quantità impressionante di credenze popolari. Farawalla è un nome che ci riempie la bocca di voce, è una parola che si fa spesso suono onomatopeico per ritornare alla sua primitività, alla sua origine. E questo quartetto nasce nel 95, ecco, l'ho trovato qui, e come vi abbiamo detto questa sera ve lo riproponiamo con l'ultimo album, che ha un po' aperto le sue direzioni nel senso di altre musicalità. Ad esempio ritroviamo in quest'ultimo progetto anche dei ritmi molto spesso che fanno un occhiolino al Brasile, e come il caso di questa canzone che andiamo ad ascoltarci, che vede la partecipazione anche del più famoso musicista molfettiano d'Italia, ossia Caparezza. La canzone si chiama Awanda la Cuica. Ah, baby, baby, kiki, oh, meri fa fado, mama, quick, quick, quick, kiki, oh. wonder pika, a wonder pika, a wonder pika, a wonder pika, a wonder pika, a wonder pika, mamma che pika, assaggia la pika, mamma come pika, suona la pika, mastica la chicca, tu come sapia io come desica, vedo che la chicca mi incastica, chiude della pika, pika, pika, la fatica che ti fa, questa pika non ti butta l'ortica, wonder pika, pika, pika, pa, spica, unisse più nausica, nausi mi, cara mi, cara mi, cara mi, ia, wonder pika, mi, ia, dopo che te lo dica, pecca la pika, ma te lo benedica, spocco la pika, dillo la cricca, qui cacchi, per chi non lo pika. A one dollar pika, a one dollar pika, a one dollar pika, a one dollar pika, a one dollar pika, a one dollar pika, a one Quica, insomma, molti di voi la conosceranno o almeno l'avete riconosciuta dal suono, e questo tamburo a frizione è molto usato nella musica brasiliana, soprattutto nel samba. E in questo album c'è tal Pippo Arc D'Ambrosio alle percussioni, che è anche il nostro collegamento con la voce femminile della prossima traccia che vi proponiamo qui alla Cicogna Nera, cioè quella di Rosa Paeda. Rosa Paeda che questa sera si vedrà impegnata in un canto tradizionale, un canto per la raccolta del grano appunto in area barese, e gli ospiti sono veramente eccezionali. C'è uno dei maggiori organettisti italiani, che è quello che risponde al nome di Riccardo Tesi, e poi abbiamo anche appunto Pippo Arc D'Ambrosio questa volta alle tabla, Michele Zerbo alla lira cretese, Davide Viterbo al buzuki. Dunque un approdo che guarda molto a oriente, molto verso dove è affacciata insomma la città di Bari. E non ci resta che andarci ad ascoltare questa canzone dal nome impronunciabile per me, Vneit o Tatsreul. Beh, con Rosa Paeda direi che è arrivato il momento di andarcene un po' più nella tradizione, un po' più nel passato, a scoprire le origini o insomma i tradizionali della Taranta, della pizzica salentina. E per farlo andiamo ad ascoltare ora la voce di Angela Gentile, in questo caso in un tradizionale che forse è meglio che non vi pronuncio, sì. È comunque una tarantella cosiddetta alla montanara, cioè una tarantella del Gargano. È un breve canto femminile che viene soprattutto fatto, eseguito durante il raccolto delle olive. Angela Gentile. E dunque questo il breve frammento cantato da Angela Gentile di questa tarantella della Montanare. Ancora una taranta che arriva dalle zone del Gargano, e dunque andiamo ad ascoltarla con i cantatori e i suonatori di Carpino, che eseguono questo tradizionale dal nome Sunet, Rureyan e Imundanar. Cioè i Rureyan sono quelli di Rodi Garganico e i Mundanare sono invece quelli di Monte Sant'Angelo, dunque una diatriba tra questi due paesi, tra la costa e il monte. Una tarantella in modo minore, almeno per quanto riguarda soprattutto nel primo dunque frammento, quello delle Rureyane, per poi nel passaggio al maggiore, all'opposto, il Mundanare in tono minore, e poi a metà si passa alle Rureyane in tonalità maggiore, un pezzo sicuramente fondamentale della storia della musica italiana. Tu manna se pure più guai e sto bedulette di rose bio. Di rose viole e sto bedulette di rose viole, ma lo primo che cominciai a fai e la donna tramutava il suo colore. E se ti ne le donne non pigliate me. No, non pigliate more, e se ti ne le donne non pigliate more, che si sono i primi orgogli dell'amore. L'amore già comincia per l'usone e canta, e ma va a finire scendà alle pene ardente là. Vuole Dio, vuole la moglie, l'ute e la pazzia, e ma punturarmi chi, e per me non c'è fortuna, per mangiare i maccaroni, me lei ancora sta zia. E non ha già l'utovis, non ha fa la condignor, la lontana da scappa la risa, da voce ne si brucia. Nigata faccia da sabinet, a mamma mi nu garo fini da vera. Nu garo fini da vera, a mamma lu jani jani si no giuar, a μιλάγια με την Betty Lapetabet. Την Betty Lapetabet, αλήθεια την καλουένε την εκπαντεμπέλ. Correggo ancora una volta, è proprio questa seconda parte della traccia, cioè della sonetta mundanare, che c'è stato il passaggio dal maggiore al minore, e noi ce l'ascoltiamo in un'altra versione, questa sonetta mundanare, che arriva dallo stesso album, che è quello delle tradizioni musicali del Gargano volume 2 a cura di Salvatore Villani. In questa versione andiamo ad ascoltare sempre due musicisti che arrivano dai suonatori, cantatori, dai cantatori e suonatori di Carpino, sia Michele e Antonio Maccarone, e che la propongono questa celebre melodia, questa celebre tarantella che si chiama, che è conosciuta come tarantella del Gargano, la propongono insomma a voci alterne maschili. Togli di viole, che bello romaie, togli di viole, ai sì la morbite la voli fare, e chi te l'è venuta da tanta denor. Dai tanta d'onore, te lo è venuta, dai tanta onore, a chi lo tua sangue vola parindar, a domande li vicini, domande li vicini, a domande li vicini agli parenti. Cini li tuoi parenti, domanda li vicini li tuoi parenti, se c'ha vitro piacere io tutto quando, ma voi mamma e padre stati vassenti. Padre stavi da sante, ma voi mamma e padre stavi da sante, se c'è la vita dai parla tlunanz, ma non vi cerchi noi, ma non vi cerchi noi, ma non vi cerchi noi gente educata. Gente educata, e non vi cerchi nutre gente educata, a vi cerca vostra figlia che mi console bel. Ma vole bello, vatti visti Munagel. E bello, vatti visti Munagel. Ma marica ti fai, sardoggi pagherai. E vole, davi dati la parola. Ma la parola data, ganatori l'usistante. I sto i castagnazze, ma oggi nel capillo i castagnazze. Ma quando vai a te, lo mio corso stizze, e lo sangue in tali veni ci scomparse. Noi ci scomparse, lo sangue in tali veni ci scomparse, lo sudore comparisce a stizze a stizze, e fu il cane che muovene l'urso. E mo bene l'urso, e fu il cane che mo bene l'urso, per la giamba del lettisto che l'umus è là, a vole la longa si inzia, ma longa si avessero di e proprio moi vinarri, longa si avessero re, notte e un vicino a te, bella tu si e innamorama fa, a se bello tu non gli ve innamorano non lo facci, alla fatta innamorare la camna dura e lo parla, a quando la donna è bella e te ne adunno camna, scacchia longa e piscendere e lagunella faggerà. Questi interessantissimi interventi vocali sono a cura invece di Nunzio Perfetto, insomma, che si alterna tra la voce dei due fratelli Michele e Antonio Maccarone. Ancora un tradizionale, quando sono le 10:13, non siamo ancora passati all'altra regione d'Italia, ma d'altronde abbiamo un po' di tempo per ascoltarci delle musiche stasera, allora facciamolo. Un altro tradizionale, vi dicevo, questa volta arriva dalle contadine e trattoriste di Tor Chiarolo, che se non sbaglio dovrebbe essere in provincia di Brindisi o giù di lì. E Aria Stesa è il nome di questo pezzo, che è fondamentalmente un canto per la raccolta delle olive, ma che è anche eseguito durante le camminate di queste donne che raggiungevano i campi di lavoro. E così questo canto si diffonde, o almeno si diffondeva nelle strade di Tor Chiarolo, come una sorta di richiamo, una sorta di sveglia. Aria Stesa dunque è proprio un modo di portare il canto, con almeno tre voci: la voce che lancia il canto, la paravoce che lo riprende e infine sulla chiusura il basso finto. E sta alzata e longa, a mie gutta me pare. Te ce se pa la de. Stesa dunque, questa riproposizione di questo tradizionale. Allora, ancora l'ultima voce per la Puglia per questa sera qui alla Cicogna Nera, lo facciamo con una espressività paurosa, tagliente, forse la maggiore che c'è da queste zone in questi tempi. Anche lei si muove nella riproposizione della musica popolare, e lo fa soprattutto attraverso cercando almeno di riscoprire la potenzialità dell'antica lingua del greco. 2008, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, andiamo a controllare, sì, 2008 per il suo ultimo album, che si chiama Ninna Morella, lei invece si chiama Anna Cinzia Villani, e in questo album coniuga sia l'aspetto della riproposta della musica tradizionale orale salentina, che è molto cantata, ma anche l'aspetto della contaminazione. A proposito, leggiamo dalle sue parole: ho messo in luce aspetti meno conosciuti della musica del Salento e facendo ricerca mi sono resa conto della vastità e complessità del repertorio, non solo come differenze melodiche ma anche come varianti testuali. Il percorso più importante è impadronirsi senza pregiudizi e con molta umiltà delle peculiarità stilistiche del canto, ma anche dell'umanità che del canto mi sono perso. Vabbè, comunque ci fa capire quello che, dove, in quale direzione vuole andare Anna Cinzia Villani con questa Ninna Morella. Comunque è una voce stupenda. Questa sera ve la propongo con una canzone per voce e organetto che si chiama La Tabaccara. Thank you. noi con questo piccolo intermezzo, quando sono le 10:23 minuti, ci colleghiamo alla seconda parte, alla seconda regione d'Italia che andiamo un po' ad ascoltare questa sera, ossia il Piemonte. Questo jingle è naturalmente una canzone famosissima, che è quella della Piemontesina Bella. In questo caso l'avete sentita eseguita da una foglia d'erba praticamente. E per quanto riguarda invece il nome di questa canzone, è una canzone popolare d'amore naturalmente, ma in realtà non è una canzone in piemontese, perché praticamente narra la vicenda di un giovane studente che deve partire da Torino dopo che ha terminato gli studi e naturalmente, oltre alla città, deve abbandonare anche la sua bella piemontesina, in questo caso Rosina. Un'altra voce di donna, ci colleghiamo da Anna Cinzia Villani ad una nuova voce che va sempre insomma nella riproposizione della tradizione. Continuiamo per questa via insomma, che guarda un po' all'indietro, al passato, piuttosto che alla riattualizzazione, alla contaminazione, e lo facciamo con Laura Conti e Ombra Gaia, in questo caso per con la gentile concessione della Folk Club Etnosuoni, un'etichetta molto importante di quest'area. Ci andiamo ad ascoltare Baikampo. Era partito qualcosa in sottofondo, pensavo alla canzone, ma invece non è così. Dunque andiamoci ad ascoltare questa Baikampo, che è praticamente una filastrocca popolare usata come canto a ballo dai bambini di Rueglio, in provincia proprio di Torino. Una filastrocca, andiamo ad ascoltare invece una canzone, un altro tradizionale dedicato al vino, dedicato ai lavori necessari alla sua produzione, ad iniziare da quelli dalla vigna. Ce lo propongono i Compagnon Roulant, la canzone si chiama appunto Labello Vino. Oh, la be- puim pum pum aluvin, oi la belo puot vin, la jolie puot. Et de bonheur fico, la jolie perfico, perfiquin, perfiquin, perfico maluvin. Rientriamo su questo bello vino e andiamo a proporvi ora un paio di canzoni piene di ironia. La prima arriva da un cantante che è stato un testimone straordinario negli anni 50, testimone musicale ma anche politico, si chiama Fausto Amodei e compose questa canzone che ora vi proponiamo proprio in aperta, in aperto conflitto, diciamo, con la banalità anche allora imperante nella musica di Sanremo. La canzone si chiama Il ratto della chitarra. La mia povera chitarra ha subito un incidente, l'altro giorno fu rapita da un ignoto malvivente. Era una chitarra vecchia senza classe, un po' ridicola, non aveva sangue illustre né una cifra di matricola. Non so proprio la ragione che me l'han portata via, e non ho neppur pensato ad avvertir la polizia, perché so che alla questura era in fondo un po' malvista, l'han schedata sotto il nome di chitarra comunista. Cantava senza paura dei versi un poco insolenti, in barba alla censura contro i padroni e i potenti. Era alle volte estremista e la sua grande ambizione era di accompagnare la musica della rivoluzione. La chitarra ripulita, ben lavata ed elegante, sarà spinta a far la parte di chitarra ben pensante, per seguire la corrente, per salvarsi un po' la faccia. D'ora in poi dovrà evitare di dir qualche parolaccia. Mi vorrei proprio sbagliare, ma so già che il rapitore porterà la mia chitarra sulla via del disonore. Prostituta e svergognata, un bel dì la sentiremo a suonar sui marciapiedi le canzoni di Sanremo. Cantava senza timore, senza badare agli offesi, anche argomenti d'amore, ma senza far sottointesi. Si era una coppia ideale, c'era una splendida intesa, si stava insieme anche se non eravamo sposati in chiesa. Non mi han detto fino ad ora qual è il prezzo del riscatto, ma ci sono altre maniere per far ben fruttare un ratto. Per esempio, legalmente non c'è manco un codicillo che consideri reato lo sfruttar chitarre squillo. Istruiranno la chitarra a sedurre gli italiani, miagolando e dando baci su dei ritmi afro-cubani. Prenderanno loro i soldi e da mo' di conclusione la faranno anche cantare alla Rai Televisione. La mia chitarra perduta era chitarra d'onore, non si sarebbe venduta neppure per un milione, poiché era molto espansiva, non era certo illibata, ma concedeva i propri favori soltanto se innamorata, ma concedeva i propri favori soltanto se innamorata, ma concedeva. E continuiamo con l'ironia, con la prossima traccia, si chiama Al Mercato. Giobbia mattino di del mercato, ed anche a mia tutti pi desperà. Giobbia mattino pi desperà. La macchina ma che stili, se ti finisci da re e BGP. Guido la macchina e BGP. Sento in te set verbo tellium, qui antineve a tutte stagioni. Sento in te set tutte stagioni. Col cu guida caplin an testa, da usin sua funda vestia da festa. Col cu guida vestida festa in. Ora lente dopo frena, messa la via senza problema. Ora lenta senza problema. Chi la cara che costa di e dare del cu e mai più finie. Dare del cu e mai più finie. Dopo riparta un po' più in là, vinte se torna a balà. Dopo riparta torna a balà. Dare che sono tocca fanese, sciancunando ve parcheggese. Sciancunando ve parcheggese. Uva campartuso, scampa dead lie, venga la macchina, fa non ciudai. Uva campartuso, fa non ciudai. Mosto ne niente da fe, o bitte la retro, tocca mindre. Tocca mindre, tocca mindre, tocca mindre, tocca mindre. Dare che sono pianto una fela, o manda caghembe la manera. O manda caghe, o manda caghe, manda caghe, manda caghe. O fa la ripresa con un fiuma, sura senta una bici anche due vasi. Sciappa due vasi, sciappa due vasi, sciappa due vasi, sciappa due vasi. Ma dopo un ciotta. Ma dopo un ciotta. E adesso scusa ye. E adesso scusa ye. Ucciama caicù. Ucciama caicù. Che devo monte, che devo monte, cade la sua funda, cade la sua funda, hai già finito, hai già finito, un fermali in me, un fermali in me, la fa monte lì, la fa monte lì, attraversa la via, attraversa la via, un desburso in mano, un desburso in mano, a buona impaina spia, a buona impaina spia, a cammina bin piano, a cammina bin piano, e chi è l'ore sta, e chi è l'ore sta, cala ne a giute, e li tve an veie, e li tve an veie, e li tve an patle, e li tve an patle, e li tve an patle, e li tve an patle, e li tve an patle, e li tve an patle, I other beer bagaglio e I a carriature I montan sa macchina e son partie bre. Questi dunque Al Mercato, proposizione dei Tre Lilu. Noi andiamo veloci questa sera, altrimenti non ce la facciamo ad ascoltarci tutta la scaletta che abbiamo in programma. Lo facciamo con un tradizionale piemontese che arriva da un piccolo paesino che si chiama Riva, non so, la provincia, ecco, provincia di Torino, e lo sentiamo riproposto da un gruppo che si chiama, che risponde al nome di Tre Martelli, un gruppo abbastanza sconosciuto direi, ma che comunque è sulla scena da ben 25 anni nell'area del jazz rock, che però piano piano col tempo si è avvicinata alle tradizioni vocali e strumentali piemontesi. La canzone si chiama La Tempesta. l'amniva, l'amniva, la piame lua, la piame lua, e la tempesta, l'amniva, l'amniva, la piame lua per cura lugra, la piame lua per cura lugra. Le mei fel boia, le mei fel boia, la piame liwa per cura lu gran. Le mei fel boia che fe lo paesà, pari enna mari cu quazzin masna. Amante nie, pari enna mari cu quazzin masna. Amante nie, come si fa? Più c'è l'armonica e la chitarra, fatti ma giust, più c'è l'armonica e la chitarra, fatti ma giust se le fere in merca, fatti ma giust se le fere in merca, le permanteni, fatti ma giust se le fere in merca, le permanteni. Un altro tradizionale, questa volta inneggia come prima al vino e al saper vivere, lo propongono la Lionetta, gruppo storico di questa zona, si chiama Chanter, Boir e Trier. Me grandent que je mange tout mon bien. Moi si ça me rend très bien, moi je ne veux que boire. Faut bien mandar sang, chante, boire, rire, rire. Faut bien mandar sang, chante, boire, rire, souvent. Recrée de presse, la sombrette de vin. Regarde son latin, je sais que moi lui-même. Combien mandal chan, chante, barré, rire, rire. Combien mandal chan, chante, barré, rire, souvent. Je n'ai rien perdu, je suis venu tout nu et j'ai retourné ta même. Combien mandal sang, chante, barré, rire, rire. Combien mandal sang, chante, barré, rire, souvent. questo è un brano raccolto dalla Cantarana, che è una che è, non è una, è la grande memoria storica delle musiche e dei canti tradizionali, delle danze, soprattutto nella regione del Pinerolese. Allora, andiamo avanti ancora, gruppo invece più attuale o attualizzato, se così possiamo dire, si chiamano i Tregomigo, hanno appena pubblicato da poco il loro nuovo disco, dovrebbero cantare in occitano, il disco si chiama Scuza Ou Augui ed è un concept album, non in inglese ma in bellinese, la lingua di Bellino, che è questo piccolo comune della Val Varaita in provincia di Cuneo, dunque molto facilmente è appartenente alla cultura e all'idioma occitano. Dunque leggiamo nelle note di copertina: l'inversione totale musicale all'elettrificazione recente e di moda, vagamente etnica a contenitore generico, si sostituisce una formazione interamente acustica. È una sfida per l'ascoltatore di saper vincere la prima differenza, eccetera eccetera. Andiamoci ad ascoltare, la canzone si chiama Moon Home. Su che sto tero mun piacere mun bunur lei mun ame iai duna tu zucai mon amore tu mun corana che l'ome me la nuec conta sueño lei per lei per mun ame lei fa che i sio bel che i sio ricni farinel ma mi lai mu con te i me divena sui papuren lei cumulien che mereten a lei ta la menti la per anen sui martel el me fario far tutto che i vol c'ha proprie sfuol con te si viei sui mi se pausa la mer la lamentin la pel fut patun senso razun i me divena la mesun c'ha beta lai guai macarun a lai ta la menti la pel anun sui martel el me fario far tutto so che i vol c'ha propi e scuol i disun che c'ha che perdune con la fremo seduno all'ome che ha davvero molto bello, molto carino questo ultimo progetto dei Tregomigo. Noi vi vorremmo proporre altri due o almeno tre artisti, forse sono tra i più famosi quelli piemontesi della new folk, delle nuove musiche popolari, e sono i Ludolfin occitani e i Tenda Shant. Non ce la facciamo questa sera, vi voglio invece far ascoltare due canzoni che vanno un po' più sul versante elettronico. Questa prima è una poesia intrisa di lirismo occitana che è riarrangiata molto molto interessantemente da un gruppo chiamato Gai Sabir. Gai Sabir è il nome del gruppo. Sentiment embrolat. Sentiment Embroia, il nome di questa canzone, come ho tentato di proporvi, di pronunciarvi prima. Questo invece in sottofondo è un'altra canzone, un altro grande cantante che avrei voluto proporvi, ma che la usiamo come base questa volta, perché proprio è musica dilatata, musica per immagini. È il dopo, è il Fabio Barovero dei Dopo Mau Mau. Questa è la sua ultima uscita, si chiama Sweet Limbo 2010. L'ascolteremo sicuramente, è un progetto davvero davvero molto interessante. Anzi, ve ne faccio ascoltare giusto un 10 secondi. Mancano 8 minuti alle 11, andiamo a chiudere questa puntata della Cicogna Nera e lo facciamo con un tormentone, una canzone che molto difficilmente insieme al suo cantante sarebbero entrate nella playlist della Cicogna Nera se non grazie a un trombettista che arriva dal mondo del jazz, un trombettista senza confini che risponde al nome di Giorgio Licalzi e che ha stravolto letteralmente questa canzone, questo tormentone dell'italianità di un po' di tempo fa, di un po' di anni fa, degli anni 80 diciamo. Non vi dico né il nome del compositore originale né il nome della canzone perché tanto la riconoscerete. Comunque con questa noi vogliamo chiudere la Cicogna Nera, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo come sempre alle 21. Io vi auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda Rossa con Apostasia tra poco qui ai microfoni di Onda Rossa. Ciao cittadini, qui siamo tutti presenti. Innanzi a tutto a questo locale io ringrazio gli sposi e mia cognata che effettivamente ci ha portati in questo locale, che ha dato l'onore effettivamente al più alto. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Buongiorno, Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia, col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero, un italiano vero.